America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Ennesimo record dell'indice Dow Jones, siamo arrivati a quota 20.789,91 punti, siamo al decimo record consecutivo. Beh, devo dire, si stanno mettendo delle pietre miliari, tra l'altro un'analisi di quello che sta capitando in borsa, dell'atteggiamento dei traders, degli investitori, dei risparmiatori, merita secondo me una puntata a parte, magari la settimana prossima cercheremo di approfondire anche quali sono le dinamiche economiche e psicologiche che portano a questo entusiasmo di borsa. Rialzi, seppure piccoli, anche per l'S&P 500, che è arrivato a quota 2.363,79 con un aumento dello 0,4%, Nasdaq leggera perdita 0,43% a quota 5.835. Perché questo minimo di prudenza da parte dei mercati? Beh, perché il segretario al tesoro Mnuchin ha detto l'Italia, le tasse sono pronti, li faremo per agosto. Dice, come per agosto? Noi ce li aspettavamo molto prima, si sperava che venissero chissà magari aprile, maggio, massimo giugno, dunque questo ritardo, come dire, ha generato un po' di nervosismo, ma non nervosismo sufficiente a generare un'inversione di tendenza per l'indice Dow Jones. But if countries are going to have nukes, we're going to be at the top of the pack. Ecco, il presidente Donald Trump ha dato un'intervista alla Reuters e devo dire, invece di rivendicare il merito di questa straordinaria performance della borsa, che tutto sommato, devo dirlo, questo è un effetto Trump, questo è un Trump rally che abbiamo in borsa, no, Donald Trump si è concentrato come al solito un po' sulla provocazione, sul polemico, ha rilanciato sul nucleare, ha detto noi non saremo mai secondi a nessuno dal punto di vista dell'avanzamento dell'arma nucleare. Ha fatto questa intervista ai margini di un incontro con 20 industriali americani, appunto mentre parlava con loro a un certo punto ha definito l'accordo START, il New START del 2010, che è stato un accordo storico, una pietra miliare per contenere la proliferazione atomica, per limitare l'arsenale nucleare di Stati Uniti, Russia, e l'ha definito un altro accordo cattivo, pessimo, a senso unico, come dire, si avvantaggia soltanto la Russia e ne ha approfittato per attaccare la Russia. Come sapete, Vladimir Putin, che è tutto moine, sorrisi nei confronti di Donald Trump, dopodiché gli ha schierato di nascosto dei missili cruise. E dunque Trump dice, di questo ne parlerò direttamente a Vladimir Putin se e quando lo incontrerò. Cioè, mentre prima era ci incontreremo, faremo grandi cose insieme, qui se e quando lo incontrerò. Attenzione, perché è una sfumatura non da poco. La Cina. Beh, la Cina, come al solito, Donald Trump l'ha attaccata in relazione alla Corea del Nord, e su questo devo dire ha ragione, perché la Corea del Nord è sotto la tutela e l'influenza della Cina, e Trump dice se la Cina volesse potrebbe porre fine rapidamente alla minaccia nordcoreana. Dopodiché sul piano economico ha confermato che è molto favorevole alla tassa sulle importazioni. Questa tassa non piace chiaramente al Messico. Let me be very, very clear. There will be no, repeat, no mass deportations. Everything we do in DHS will be done legally and according to human rights. Kelly dice, devo essere chiarissimo, non ci sarà alcuna deportazione di massa. Rispetteremo la legge, rispetteremo i diritti umani, ci saranno deportazioni focalizzate su criminali. Saranno coordinate dal governo messicano. Lo stesso ha detto Tillerson. Insomma, i due hanno gettato un po' di acqua sul fuoco, cercano di trovare, come dire, un modus vivendi al Messico, che è molto irritato da questa aggressività americana sugli immigrati, minaccia di scaricarglieli, tra l'altro, sia che siano messicani, honduregni, del San Salvador, di Costa Rica, di Panama, di ovunque siano, dice no, noi li diamo al Messico. Quindi c'è stata questa operazione diplomatica di Kelly e Tillerson, se non che, beh, gli ha guastato un po' le uova nel paniere proprio Donald Trump, sempre in questa chiacchierata. Sentiamo. That's going to be a tough trip, but he's over there with General Kelly, who's been unbelievable at the border. You see what's happening at the border. All of a sudden, for the first time, we're getting gang members out, we're getting drug lords out. And it's a military operation because... Ecco, mentre quelli, Tillerson appunto e Kelly, dicono ma qui insomma le cose vanno benissimo, con loro ci intendiamo, non vi preoccupate, e Trump dice sarà un viaggio molto molto complicato. Kelly, devo dire, è stato, dice Trump, fenomenale nel suo lavoro al confine, ma ve ne rendete conto? Stiamo cacciando fuori dagli Stati Uniti i membri delle gang, i signori della droga, di fatto è un'operazione militare. Ecco, Trump è un gran maestro in questo, voglio dire, è una gaffe, irrita i messicani, ma sa esattamente quello che sta facendo. Lui sta mobilitando la sua base. I messicani si irritano, reagiscono come ha reagito Luis Videgari, il ministro degli esteri, che ci deve essere un dialogo, dobbiamo decidere certe cose insieme. È lontanissima, dice, la possibilità di un accordo. E il ministro dell'interno, Osorio Chong, ha addirittura confermato di essere in disaccordo con le nuove politiche dell'amministrazione. Well, in regard to us too, I think the biggest misconception is everything that you're reading. Previous e Bannon, la storia Washington e che i due si odiano. Bannon è l'anima nera, negli show televisivi Saturday Night Live ce lo fa vedere vestito da scheletro, arriva con un teschio, con queste unghie lunghe, tutto vestito di nero, allunga le mani, quindi fa un po' spavento, mentre invece Priebus dovrebbe essere l'anima buona dell'amministrazione. Beh, si sono presentati ieri tutti e due, e allora l'intervistatore gli chiede: ma qual è la più grande menzogna di quello che si racconta sulla Casa Bianca? E Priebus dice: beh, è quello che viene scritto su me e Bannon. Tutto quello che leggete, come se fossimo nemici, ma se siamo insieme praticamente dalle 6:30 del mattino alle 11 di sera. If you think they're going to give you your country back without a fight, you are sadly mistaken. Every day it is going to be a fight. Guardate al partito dell'opposizione, e si riferiva alla stampa, che era in fondo alla riunione della CPAC. Questa riunione è il Conservative Political Action Committee, che è un movimento conservatore che ha organizzato appunto un vertice ieri. Oggi tra l'altro parlerà Donald Trump, ci sarà una grande apoteosi, e dice: questi dell'opposizione raccontano, cioè la stampa, hanno raccontato le più grandi menzogne sulla campagna elettorale, sulla transizione e ora sull'amministrazione. Tutto sbagliato, siamo un gruppo unito e lo siamo perché ci riconosciamo in Donald Trump e nelle sue idee. E poi di nuovo nell'ennesimo attacco alla stampa, beh, Bannon qui dà un messaggio molto forte, dice: noi continueremo a smantellare l'attuale sistema dell'amministrazione pubblica, il sistema delle tasse, delle regole, degli accordi commerciali. Per questo la stampa ci attacca. Vi sbagliate se pensate che loro siano pronti a restituirvi il paese senza combattere. Dovremo combattere, la stampa è contro di noi perché vogliamo smantellare un ordine precostituito. Preparatevi perché sarà una battaglia quotidiana. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Have a great weekend, goodbye and get going!